La tua tipa ascolta i Pizza Lover, Umberto Bossi ascolta i Pizza Lover, il prof di mate ascolta i Pizza Lover, la Franzoni ascolta i Pizza Lover, il tuo capo ascolta i Pizza Lover, DJ Pip ascolta i Pizza Lover, anche tu ascolti Pizza Lover, anche tu ascolti Pizza Lover. Cazzo aspetta. Queste parole sono la vera mina, la mia testa esplode quando lei grida. Non faccio l'amore per 6 ore di fila, faccio 6 ore di fila per fare l'amore. Sono il nuovo Willy Smith, però versione Italia. Ho quelle principe di Bel Air, sono il re di Bellaria. Pizza Lover il nome, una coppia pericolosa, con il solo paragone di Olindo e Rosa. Con noi il vero paragone, manco fossimo la Troni. Ho rimengo se taglienti che lo spot lo fa Chef Tony. Il tuo stile sta economia in quanto tale decade. Io rime ricercate alla pari di Bin Laden. Zunco lascialo stare a beat spettacolari. È tutto regolare come dicono i dari. Vale quel che vale come dicono i dari. Dovete solo crepare come dico ai dari. Base gangsta, non ci rappresenta, riferito alla gente che tenta di essere contenta. Stenta, sorrisi che si allargano in volto. Io giuro che un giorno quella faccia di cera te la smonto. Sono sempre stato umile e tranquillo, perché dietro di me c'è un gruppo a cui assomiglio. Beh, liste fitte, lunghe quanto piste, le medie amici veri, le tue di donne intraviste. Ti appoggi sempre su tua madre e tuo padre, ma se gareggi contro me comincia ad ansimare come da padre. Se vuoi provare possiamo pur continuare, ma stai esplodendo. Ti lascio poi rifiatare. Io agli scratch mi diverto un sacco, mentre Manu mi fa sempre più paura. Per i temi che affronta io divento matto, lui si infuoca ed è proprio la causa di questa calura. Prendo posto al micro, scorro liscio e spedito. Vorrei darti una mano ma ho solo un terzo dito. Se questa vita fosse un episodio di Batman, molto probabilmente sarei chiusa ad Arkham. C'è più caos nella mia mente che nel disco Karma, ed è uno stile più crudo del prosciutto di Parma. Non faccio freestyle, non faccio battle, mangia pizza ti fa il culo come le Ninja Turtle. Pizza Lover style, la tua poesia preferita, sono più schizzato del fluido che ti ha dato vita. DJ Zunku, ascolta i Pizza Lover. Manu, ascolta i Pizza Lover. Vane, ascolta i Pizza Lover. Johnny, chi? Ascolta i Pizza Lover. Il Brad, ascolta i Pizza Lover. DJ Stark, ascolta i Pizza Lover. Il fronte retro, ascolta i Pizza Lover. Francesca, ascolta i Pizza Lover. La nostra famiglia, ascolta i Pizza Lover. Ascolta i Pizza Lover. Ascolta i Pizza Lover.